musica gagliarda. Dinamica del suono. Musica gagliarda. Dinamica del suono. Un due. Musica gagliarda. Un due. Dinamica del suono. Un due. Musica gagliarda. Un due. Ritmica. Un due percussione. Un due percussione. Strumenti a percussione. Percussione. Quando l'accento divide il tempo in gruppi di due movimenti, il tempo si dice binario. La gran cassa è il più grande degli strumenti di questo tipo. Fate però attenzione ai colpi del tamburo. Ascoltiamo questa marcia e osserviamone il tempo del tamburo. Avrete notato che il tamburo divide il tempo in tante parti o movimenti uguali. Così. Così. Il mezzo elastico può essere costituito da una corda di budello fatta vibrare mediante lo sfregamento di un arco di crine. I suoni che avete ascoltato erano le vibrazioni della prima corda di un violoncello. In altri strumenti la corda invece viene pizzicata mediante la percussione di martelletti. È il pianoforte. Fate attenzione a questo generatore elettronico. Il suono elettronico, infatti, è un suono puro. È il più grande degli strumenti di questo tipo. Fate però attenzione ai colpi del tamburo. Del tamburo. Ascoltiamo questa marcia e osserviamone il tempo del tamburo e il ritmo del tamburo. Il tempo del tamburo e il ritmo del tamburo. Il tempo del tamburo. Del tamburo. Avrete notato che il tamburo di divide il tempo in tante parti o movimenti uguali. Così, così, così, così. Così, così, così, così. Avete capito che nella musica, come in ogni arte, si tratta di conciliare la legge con la libertà, la precisione con la fantasia, la legge con la libertà, la precisione con la fantasia.